Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Dalle consegne dei pacchi di Amazon al trasporto delle sacche di sangue tra ospedale e ospedale, dal telerilevamento al controllo del territorio, vi sono un'infinità di compiti per i quali i droni aerei, questi piccoli robot volanti sempre più diffusi ed economici, sembrano essere stati inventati apposta. Ma l'idea che in futuro il cielo possa essere attraversato da migliaia di questi oggetti ronzanti comporta non poche complicazioni. Primo, fra tutte, quella della sicurezza. Intanto c'è il rischio che uno di questi apparecchi, insomma, ci possa cadere sulla testa. E poi, per esercitare un minimo di controllo su ciò che circola per le strade, si possono mettere delle pattuglie a fare dei controlli, ma come si fa a fermare un drone aereo mentre è in volo per ispezionarlo? Come si può immaginare in prospettiva di controllare un traffico aereo formato da migliaia di piccoli robot, ognuno con il suo carico e la sua destinazione? Beh, ne parliamo con Alessandro Cardi, direttore centrale della regolazione tecnica dell'ENAC. Buonasera Cardi. Buonasera a lei. Buonasera. Allora, siamo di fronte a dei problemi non banali da risolvere e tuttavia, ecco, trovare una soluzione non troppo restrittiva è importante perché sono moltissimi anche i benefici che si possono avere dalla diffusione di questi piccoli droni e anche voi lì all'ENAC, dove vi occupate di emanare le regole per quanto concerne il volo, avete pronta, insomma, una nuova normativa. Certamente. Noi abbiamo anche modificato un regolamento già emesso l'anno scorso proprio per tenere in debito conto anche delle raccomandazioni della Commissione europea di supporto e sostegno allo sviluppo economico di questo settore. E quindi abbiamo approfondito, dopo le prime esperienze, anche alcuni temi legati all'esposizione al rischio dei soggetti e delle persone che possono essere sorvolate durante queste operazioni e abbiamo ritenuto accettabile, in quanto l'esposizione al rischio è modesta, quella di liberalizzare sostanzialmente la classe di droni sotto i 2 kg. D'accordo, questi potranno volare quindi liberamente sui centri abitati purché non abbiano spuntoni, no? E mezzi offensivi a bordo in pratica. Parliamo dei droni un po' più grandi. Bene, quelli un po' più grandi, quindi parliamo sempre di un uso diciamo in ambienti urbani, di droni che vengono utilizzati a bassa quota, poche decine di metri, con un controllo costante a vista da parte del pilota che li manovra. Questi vanno da 2 ai 25 kg e devono rispondere, per operare in queste condizioni, a dei requisiti di affidabilità del software che in qualche modo ne diminuisca proprio la rischiosità e quindi l'esposizione al rischio delle persone. Ecco, in particolare di che cosa stiamo parlando? Per esempio, una delle cose che abbiamo richiesto nel regolamento è che il software abbia dei meccanismi e delle procedure, tipo quando dovesse saltare il data link, quindi il collegamento in onde radio per cui che lo rende governabile, può essere dotato di meccanismi che lo fanno permanere in aria per qualche secondo e poi riprendere la sua missione o terminare quei secondi in assenza di contatto, scendere a terra in modo controllato oppure tornare al punto di partenza. Sono molto utilizzati già oggi i droni in generale sui cantieri, consentono di fare un sacco di cose, a mappare il terreno, a fare le termografie degli edifici. Ecco, lì pensate di rendere un po' più facile l'utilizzo di questi apparecchi? Beh, abbiamo innanzitutto definito che un cantiere non è un'area urbana qualunque, quindi abitata da cittadini ignari, ma comunque è un luogo, diciamo, uno stabilimento, un luogo di lavoro dove le persone sono informate, hanno mezzi di protezione individuali e con i dovuti accorgimenti. Non dimentichiamo che in un cantiere c'è sempre un capocantiere, certo. Quindi coordinare quelle che sono le azioni e le operazioni, riprese o altro, insieme al capocantiere contribuisce a ridurre, a gestire ulteriormente i rischi. Rendendoli assolutamente minimali, se non dico inesistenti, ma sicuramente marginali rispetto alle operazioni. Uno dei temi è poi il controllo di quello che questi oggetti un domani potrebbero trasportare. Pensiamo ad Amazon che ci vuole distribuire i pacchi. Si parla per esempio della possibilità di montare a bordo di questi oggetti una sorta di transponder, qualcosa che li identifichi, tanto per cominciare. Beh, la tecnologia oggi dà diverse possibilità. Si tratta di capire qual è il sistema che dia le maggiori garanzie di stabilità e sicurezza e si procederà poi eventualmente con obblighi di installazione. Ecco, probabilmente diciamo una sicurezza assoluta, al di là del fatto di questi oggetti che possono cascarci in testa e va bene, sì. Su quello che trasportano probabilmente un controllo assoluto non sarà mai possibile esercitarlo. No, questo non è possibile. Un controllo assoluto e puntuale, capillare, credo che non sia nella natura delle cose, proprio per la enorme diffusione e per la variegatezza delle situazioni in cui questi possono essere utilizzati. Lei ci crede a ipotesi come quelle di Amazon, per cui potremmo vedere magari veramente questi droni utilizzati quotidianamente per spedire pacchi o cose di questo genere? Ma sicuramente un impiego per materiali, diciamo, urgenti o salvavita o quant'altro è possibile, dove le zone sono non desolate ma con difficoltà di raggiungimento e di connessione. Nelle città è un qualche cosa che non possiamo escludere, ma non è nell'orizzonte dei prossimi anni. Grazie Alessandro Cardi. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.